La sera estiva aveva cominciato ad avvolgere il mondo nel suo misterioso amplesso. Lontano, laggiù a occidente, il sole tramontava e l'ultimo barlume del giorno, che ahimè fugge veloce, indugiava amorosamente sul mare e sulla spiaggia, sul superbo promontorio del nostro caro vecchio Howth, fedele guardiano come sempre delle acque della baia. Sopra le rocce coperte d'alghe del litorale di Sandy Mount e ultima, ma non meno importante, sulla tranquilla chiesetta da cui, di quando in quando, usciva a fiotti nella pace circostante una voce di preghiera per colei che è nel suo immacolato fulgore un faro sempiterno per il cuore umano sbattuto dalle tempeste, Maria, stella del mare. Le tre amiche stavano sedute sulle rocce, a godersi lo spettacolo della sera e l'aria fresca ma non troppo frizzante. Più e più volte si erano trovate a venir là, in quel recesso preferito, per fare due chiacchiere in pace accanto alle onde scintillanti e scambiarsi innocenti segreti femminili, Sissy Caffrey e Eddie Borman col bambino in carrozzina, e Tommy e Jackie Caffrey. Due maschietti riccioluti, vestiti alla marinara, coi relativi berrettini, e su ognuno di essi la scritta HMS Belle Isle, perché Tommy e Jackie Caffrey erano gemelli di appena 4 anni e molto rumorosi e anche un po' viziati, ma con tutto ciò due tesorucci, con due bei visini lieti e luminosi e delle mossette da innamorare. Armeggiavano nella sabbia con le vanghette e i secchielli, costruendo castelli come fanno i bambini, o giocando col loro pallone colorato, contenti come Pasque. Ed Eddie Borman cullava il pupo a futello nella carrozzina avanti e indietro, mentre lui, il signorino, ridacchiava soddisfatto. Aveva solo 11 mesi e 9 giorni, e per quanto si reggesse ancora male sulle gambine, cominciava appunto a balbettare le sue prime parolette infantili. Sissy Caffrey si chinò su di lui per fargli il solletico sulle guanciotte e sulla fossettina del mento. «Su, pupo!» disse Sissy Caffrey. «Da bravo! Di forte forte! Voglio un po' d'acqua!» E il bambino farfugliò imitandola. «Giogio boacca!» Sissy Caffrey se lo abbracciò il frugolino, perché i bambini le piacevano tanto tanto. Ed era così paziente coi malatini, e a Tommy Caffrey non si riusciva a far prendere l'olio di ricino se non c'era Sissy Caffrey a stringergli il naso e a promettergli la crosta fina fina della pagnotta di segala con sopra la melassa. Che forza di convinzione aveva quella fanciulla! Ma badate che il piccolo Borman era buono come il pane, un vero angioletto col bavaglino nuovo. E non crediate che Sissy Caffrey fosse una bella bambina viziata, tipo Flora McFlincy. Mai si è vista al mondo una giovinetta più schietta di lei, sempre con quei begli occhi da zingara ridenti e una parola scherzosa sulle labbra rosse come ciliegie mature. Una ragazza che si faceva voler bene da tutti. E anche Eddie Borman rise della buffa lingua che parlava il fratellino. Ma ecco che nacque una baruffetta fra i due signorini Tommy e Jackie. I ragazzi, si sa, son ragazzi, e i nostri due gemelli non erano un'eccezione all'aurea regola. Il pomo della discordia era un certo castello di sabbia che il piccolo Jackie aveva costruito e che il piccolo Tommy voleva a tutti i costi abbellire architettonicamente con un portone come quello della Torre Martello. Ma se il piccolo Tommy era testardo, anche il piccolo Jackie era ostinato, e fedele al motto che dice che la casa di ogni piccolo irlandese è il suo castello, si gettò addosso all'odiato rivale e andò a finire che l'aspirante aggressore ebbe la peggio, e così pure, triste a dirsi, il castello agognato. Inutile dire che le urla dello sconfitto signorino Tommy attirarono l'attenzione delle amiche. «Vieni qui, Tommy!» urlò imperiosamente la sorella. Subito! E tu, Jackie, vergognati di aver fatto cascare sulla sabbia sporca il povero Tommy. Aspetta che ti prenda e vedrai. Con gli occhi annebbiati dalle lacrime non sparse, il piccolo Tommy Si avvicinò subito perché quello che diceva la sorella grande era legge per i due gemelli ed era anche un ben triste spettacolo a vedersi dopo quella disavventura. Il berrettino da marinaio e i suoi innominabili erano pieni di sabbia, ma Sissi aveva una mano maestra nell'arte di alleviare i piccoli disappunti della vita e in men che non si dica. Non si vide più neanche un grano di sabbia sul bel vestitino. Eppure negli occhioni azzurri brillavano ancora le calde lacrime che volevano uscire a tutti i costi, e allora lei fece sparire la bua a forza di baci e minacciò con un dito il colpevole, il piccolo Jackie, e gli disse che se arrivava a prenderlo avrebbe visto cosa gli succedeva, e gli occhi le danzavano. Ammonitori. Jackie, brutto birbante! Gridò. Prese tra le braccia il marinaretto e gli fece qualche moina per ringraziarselo. Come ti chiami? Cocco d'oro? Dicci un po' chi è la tua amorosa, disse Eddie Borman. È Sissi, forse? No, disse Tommy tutto lacrimoso. È Eddie Borman la tua amorosa? Si informò Sissi. No, disse Tommy. Lo so io, disse Eddie Borman con un tono non troppo amichevole e uno sguardo impertinente dei suoi occhi da miope. Io so chi è l'amorosa di Tommy. È Gertie, l'amorosa di Tommy. No, disse Tommy sul punto di piangere. Il pronto senso materno di Sissi capì cosa c'era che non andava e sussurrò a Eddie Borman di portarlo là. Dietro la carrozzina, dove i signori non potevano vedere, e di badare che non si bagnasse le scarpe marrone rossiccio nuove. Ma Gertie, chi era? Gertie McDowell, che era seduta vicino alle compagne, perduta nei suoi pensieri, lo sguardo fisso nell'infinito, era, a vero dire, il più bell'esempio che si potesse desiderar di vedere di giovane bellezza irlandese. Era riconosciuta come una bellezza da tutti quelli che la conoscevano, benché, come la gente soleva dire, fosse più una Giltrap che una McDowell. La sua figurina era svelta e graziosa, un tantino esile se vogliamo, ma quelle pastiglie di ferro che stava prendendo da qualche tempo le avevano fatto un mondo di bene, molto meglio delle pillole per la donna della vedova Welch, e stava molto meglio riguardo a quelle perdite che era solita avere. E a quel senso di stanchezza. Il pallore cereo del volto aveva un che di spirituale nella sua eburnea purezza, per quanto la bocca a bocciolo di rosa fosse un vero arco di Cupido, di perfezione greca. Le sue mani erano di un alabastro finemente venato, con dita affusolate e bianche quanto avevano potuto renderle il sugo di limone. E la regina delle pomate. Però non era vero che si mettesse i guanti di camoscio quando era a letto o facesse i pediluvi di latte. L'aveva detto una volta a Eddie Borman Berta Supple, mentendo spudoratamente quando era ai ferri corti con Gertie. Le amichette avevano naturalmente le loro questioncelle di tanto in tanto, come tutti gli altri mortali, e le aveva detto di non far sapere qualsiasi cosa succedesse. Che gliel'aveva detto lei, se no non gli avrebbe più rivolto la parola in vita sua. No, rendiamo onore al merito. C'era un'innata raffinatezza, una languida regale hauteur in Gertie, di cui erano prove inequivocabili le sue mani delicate e il collo del piede inarcato. Se solo il fato benigno avesse voluto che nascesse gentildonna di alto rango al suo giusto posto, e se solo avesse usufruito d'una buona istruzione, Gertie McDowell sarebbe stata tranquillamente alla pari accanto a qualsiasi altra gran dama, e la si sarebbe vista adorna di vesti preziose, con gioielli sulla fronte, e nobili adoratori ai piedi in gara l'uno con l'altro a renderle devoto omaggio. E chissà che non fosse questo l'amore che avrebbe potuto essere. A donare talora al suo volto dai lineamenti così dolci quella intensità dai mille taciti significati e a impartire uno strano senso di vaga nostalgia ai begli occhi, quel fascino cui pochi sapevano resistere. Perché le donne hanno occhi così maliardi? Quelli di Gertie erano del più puro azzurro irlandese, messo in risalto da ciglia lucenti e nere sopracciglia espressive. Ci fu un tempo in cui quelle ciglia non erano così seriche e seducenti. Fu Madame Vera Verity, direttrice della rubrica della Donna Bella di Novelle della Principessa, che per prima le consigliò di provarle la ciglioleina, che dava quell'espressione penetrante agli occhi, che stava tanto bene alle signore che dettavano legge in fatto di moda, e lei non aveva mai avuto da lamentarsene. Poi c'era il sistema di guarire scientificamente dalla tendenza ad arrossire. E come diventare più alte? Aumentate la vostra statura. E avete un bel visetto, ma il naso? Quello andava bene per Mrs. Dignam, che ce l'aveva patata. Ma ciò di cui Gertie andava a buon diritto più orgogliosa era l'abbondanza dei suoi meravigliosi capelli. Erano di un castano scuro con onde naturali. Se li era tagliati proprio quel giorno, perché c'era la luna nuova, e le ricadevano attorno alla testolina in una profusione di riccioli lussureggianti. E poi si era tagliata le unghie, il giovedì porta abbondanza. E proprio ora, alle parole di Edi, come un rossore rivelatore, delicato come il più tenue petalo di rosa, le imporporava le guance. Ella appariva così graziosa nella sua dolce pudicizia virginale che di sicuro in tutta l'Irlanda bella, benedetta da Dio, non v'era di lei l'uguale. Per un istante rimase silenziosa, coi begli occhi tristi abbassati. Stava quasi per ribattere, ma qualcosa le trattenne le parole sulla punta della lingua. La sua indole le suggeriva di parlare apertamente. La sua dignità le disse di tacere. Le graziose labbra tennero il broncio per un po', ma poi alzò gli occhi e scoppiò in una gaia risatina che aveva in sé tutta la freschezza di una prima mattina di maggio. Lo sapeva benissimo, nessuno meglio di lei, che cosa faceva dire così a quella strabica di Edi. Era perché lui era un po' più freddo con lei, e invece non erano altro che liti di innamorati. Come accade in questi casi, qualcuno torceva il naso perché quel ragazzo con la bicicletta andava sempre su e giù davanti alle sue finestre. Solo che ora suo padre lo teneva a casa la sera a studiar sodo per una borsa di studio delle scuole medie, e lui sarebbe andato a studiare da dottore al Trinity College, quando finiva il liceo come suo fratello W. Wiley, che era nella squadra ciclistica all'università di Trinity College. Forse lui si curava poco di quello che provava lei, quel vuoto doloroso nel cuore che ogni tanto la trafiggeva, ma era giovane, e chi può dire se col tempo non avrebbe imparato ad amarla? Erano protestanti nella sua famiglia, e Gertie naturalmente sapeva chi veniva per primo e dopo di lui la Santa Vergine e poi San Giuseppe. Ma egli era innegabilmente bello, con un naso perfetto, ed era quel che sembrava, signore fino alla punta dei capelli. E poi la forma della testa da dietro, senza berretto, lei l'avrebbe riconosciuta dovunque, tanto era fuori dell'ordinario, e come svoltava al lampione in bicicletta senza mani, e anche il buon odore di quelle sigarette, e oltre a tutto erano alti uguali, e per questa ragione Edie Borman si credeva tanto furba perché lui non andava in su e in giù davanti a quel suo pezzetto di giardino. Gertie era vestita semplicemente, ma con il buon gusto istintivo d'una devota di Madonna moda, perché presentiva una certa probabilità che egli fosse in giro. Una bella camicetta blu elettrico tinta con palline coloranti, perché l'illustrazione femminile riteneva che il blu elettrico sarebbe venuto di moda, con un'elegante scollatura a V fino al sommo dei seni e un taschino in cui teneva sempre un po' di ovatta imbevuta del suo profumo preferito, perché il fazzoletto guasta la linea, e una gonna da passeggio a tre quarti blu scura, non molto ampia, mettevano in risalto alla perfezione la sua svelta, graziosa figurina. Portava un amoruccio di cappello sbarazzino di paglia cioccolato, a larghe tese, guarnito a contrasto con una sottotesa in ciniglia azzurro germano e di lato un nodo a farfalla incolore. Tutto il pomeriggio del martedì prima era andata alla caccia di qualcosa che intonasse con la ciniglia, ma alla fine aveva trovato, alla liquidazione estiva di Cléry, proprio quel che cercava. Un fondo di magazzino leggermente macchiato, ma non ci se ne accorge. Alto 7 dita, 2 scellini e 1 penny. L'aveva fatto tutto da sé, e che gioia fu la sua quando poi se lo provò, sorridendo al grazioso riflesso che lo specchio le rimandava indietro. E quando lo mise sulla caraffa dell'acqua perché mantenesse la forma, sapeva bene che avrebbe fatto rider verde certe persone di sua conoscenza. Le sue scarpe erano l'ultimo grido in fatto di calzature. Edi Borman andava orgogliosa d'essere molto petite, ma non aveva mai avuto un piede come Gertie McDowell, un 32, e acqua in bocca, lago laghetto, con le punte di coppale e solo una fibbia elegante al collo del piede inarcato. La caviglia tornita mostrava le sue perfette proporzioni sotto la gonna. E lo stesso si dica di quel tanto, e non più, degli arti perfetti, inguainati in calze fini, con talloni rinforzati e risvolto ampio. Quanto alla biancheria intima, era la cura principale di Gerti, e chiunque conosca le trepide speranze e le apprensioni dei bei 17 anni, per quanto Gerti li avesse già salutati, come potrà avere il coraggio di biasimarla? Aveva 4 completini deliziosi, squisitamente ricamati, 3 pezzi e in più le camicie da notte, e ognuno con nastri di diverso colore, rosa, azzurro pallido, lilla e verde pisello, e li metteva ad asciugare, li sbiancava lei stessa quando tornavano dalla lavandaia, e se li stirava, e aveva un pezzo di mattone per posarci il ferro. Perché non si fidava delle lavandaie, nemmeno se poteva tenerle d'occhio, tanto bruciacchiavano la roba. Vestiva di blu perché portava fortuna, sperando contro ogni aspettativa. Era il suo colore, e il colore delle spose, anche. Devono sempre aver qualcosa di blu addosso. Perché il verde che indossava 8 giorni fa aveva portato scarogna. Perché suo padre lo aveva rinchiuso a studiare per quella borsa di studio delle medie, perché lei pensava che forse poteva essere in giro, perché mentre si vestiva quella mattina si stava quasi infilando quel vecchio paio alla rovescia, e questo era buon segno, e voleva dire che si incontrava l'innamorato se si mettevano alla rovescia, o se si aprivano voleva dire che lui stava pensando a te, purché non fosse di venerdì. Però, quell'espressione tesa del viso, un dolor cocente la rode tuttavia. È l'anima che le appare negli occhi e avrebbe dato chissà che cosa per essere nell'intimità della sua cameretta virginale, dove, liberando le lacrime, avrebbe fatto un bel pianto e dato sfogo ai suoi sentimenti repressi, non troppo però. Perché sapeva come si piange senza scomporsi davanti allo specchio. Sei carina, Gerti, le diceva. La luce pallidiccia della sera cade su un volto infinitamente triste e pensoso. Gerti McDowell si strugge invano. Sì, aveva saputo fin dal primo giorno che quel sogno a occhi aperti di un matrimonio che è stato fissato. E le campane suonano per Mrs. Reggie Wiley TCD, perché colei che sposerà il fratello maggiore sarà Mrs. Wiley. E nella cronaca mondana Mrs. Gertrude Wiley portava una sontuosa toilette grigia guarnita di costose volpi azzurre. Non si sarebbe realizzato. Lui era troppo giovane per capire certe cose. Non credeva certo all'amore, che è prerogativa naturale della donna. La sera di quella festa ad Astoria, tanto tempo fa, portava ancora i pantaloni corti, quando rimasero soli e lui furtivamente le cinse la vita, e lei diventò bianca come un cencio. La chiamò piccola mia con una strana voce velata e rubò un mezzo bacio, il primo, ma solo la punta del naso. E poi, in fretta, via dalla stanza dicendo qualcosa a proposito dei rinfreschi. Ragazzo focoso. La forza di carattere non era mai stata il forte di Reggie Wiley. E chi avrà il cuore e la mano di Gertie McDowell dovrà essere un uomo fra gli uomini. Ma aspettare, sempre aspettare di essere chiesta. Ed era un anno bisestile e sarebbe passato presto. Il suo ideale non è un principe azzurro che le deponga ai piedi un raro e mirabile amore, ma piuttosto un uomo virile, dal volto forte e sereno, che ancora non abbia trovato il suo ideale, con forse tra i capelli un'ombra di grigio, e che la comprenda, la stringa tra le braccia protettrici e la serri a sé con tutte le forze della sua natura profondamente appassionata, e la conforti con un interminabile bacio. Sarebbe il paradiso. Per un uomo così, ella si strugge in questa balsamica sera d'estate. Con tutto il cuore anela di essere solamente sua, la sua sposa legittima in ricchezza e in povertà, in malattia e in salute, finché la morte non ci separi, da questo fino a questo giorno in poi. E mentre Eddie Borman era col piccolo Tommy dietro alla carrozzina, lei stava giusto pensando se sarebbe mai venuto il giorno in cui avrebbe potuto dirsi la sua mogliettina futura. Allora avrebbe potuto parlare di lei fino a scoppiare dalla bile anche Bertha Supple ed Eddie, quella sputaveleno, perché lei avrebbe avuto 22 anni a novembre. E lei ne avrebbe avuto cura anche materialmente, perché Gertie era una donnina saggia e sapeva che a un uomo piace sentirsi a casa sua. Le sue torte dorate cotte a puntino e il pudding della regina Anna con la sua squisita cremosità avevano riportato fervidi plausi da tutti, perché lei aveva una manina di fata anche per accendere il fuoco, spolverizzare la farina fina col lievito e girar sempre nello stesso senso, e poi scremare latte, zucchero e sbatter bene le chiare d'uovo, però non le piaceva mangiarle se c'era gente che la intimidiva, e spesso le avveniva di chiedersi perché non si può mangiare qualcosa di poetico come rose e violette, e avrebbe avuto un salottino ben ammobiliato con quadri e incisioni e la fotografia di Garry Owen, il cagnone di nonno Giltrap, a cui solo mancava la parola, era come una persona, e fodere di cinzia per le poltrone, e quel portacrostini d'argento alla liquidazione estiva di Cléry, come ce l'hanno nelle case dei ricchi. Sarebbe stato alto, con le spalle larghe, aveva sempre pensato con ammirazione a un uomo alto come marito, con denti bianchi, splendenti, sotto un bel paio di baffi ben curati. E sarebbero andati sul continente per la luna di miele, 3 settimane di incanto. E poi, una volta stabilitisi in una bella, comoda, confortevole casettina domestica, tutte le mattine avrebbero fatto insieme la colazione, semplice, ma servita in modo inappuntabile, proprio per loro due e basta. E prima di andare a lavorare, lui avrebbe abbracciato stretta stretta la sua mogliettina e l'avrebbe guardata per un momento nel fondo degli occhi. Eddie Borman chiese a Tommy Caffrey se aveva fatto e lui disse di sì, e allora lei gli abbottonò i pantaloncini e gli disse di correre a giocare con Jackie e di star buono ora e non fare a pugni. Ma Tommy disse che voleva la palla ed Eddie gli disse di no, che il piccino giocava con la palla e che se gliela prendeva sarebbero stati dolori. Ma Tommy disse che era la sua palla e che lui voleva la sua palla. E si mise a battere i piedi, guarda un po'. Che caratterino! Oh, era già un ometto Tommy Caffrey, fin da quando non portava più il grembiulino. Eddie gli disse di no, e di no, e di levarsi di torno, e disse a Sissy Caffrey di non dargliela vinta. Non sei mica mia sorella, disse quel cattivaccio di Tommy. È mia la palla. Ma Sissy Caffrey disse al piccolo Borman di guardare su, in alto, dove lei aveva il dito, e gli strappò la palla e la gettò sulla sabbia, e Tommy via dietro di corsa, dato che l'aveva avuta vinta. Qualsiasi cosa per amor della pace, disse Sissi ridendo, e si mise a fare il solletico sulle gote del frugoletto per distrarlo, e si mise a giocare a Eccoci il sindaco, ecco i due cavalli, ecco la carrozza di pasta frolla, ed eccolo che arriva piccino piccino picciò. Ma Edi si infuriò come un demonio, perché lui la spuntava sempre in quel modo, e tutti gliele davano vinte. Io gliela darei volentieri una cosa, disse, davvero, e non sto a dire dove. Sul totò, disse Sissi ridendo allegramente. Gertie McDowell chinò il capo e si imporporò all'idea che Sissi dicesse una parola come quella a voce alta, che lei se ne sarebbe vergognata da morire, e arrossì di un bel rosso acceso. E Edi Borman disse che era certa che il signore di fronte a lei l'aveva sentita, ma a Sissi non importava un fico secco. Lascia che senta, disse con una mossa birichina della testa e arricciando il nasino provocante. Gliele do anche a lui nello stesso posto, senza dargli tempo di dire ba.